Allora, alle 11:33 torniamo in diretta dagli 87,9 qui a Radio Onda Rossa e, come annunciato, diamo inizio a questa trasmissione che parla di un libro e di una iniziativa, ma insomma l'iniziativa è a seguito della pubblicazione di questo libro. Il libro si chiama Non per odio ma per amore ed è la raccolta di sei storie di donne che hanno combattuto in diverse parti del mondo in tempi relativamente recenti e che hanno combattuto le dittature, hanno combattuto per diciamo, il cambiamento più forte che si può avere, più deciso, e hanno speso la loro vita nel vero senso della parola. Qui con noi per parlare di questo libro c'è una delle autrici che è Paola Staccioli, poi l'altra autrice che è Heidi Giuliani, cercheremo di contattarla anche telefonicamente e poi c'è anche Marco che insomma è una voce nota da questi microfoni che ci darà conforto nell'illustrare sia il libro e sia l'iniziativa che è prevista per venerdì prossimo, 30 novembre, al centro sociale ex SNIA a partire dalle 18:30, in cui ci sarà la presentazione di questo libro con un dibattito con la presenza delle autrici e di altri e di altre figure importanti. Ma per cominciare subito io darei la parola a Paola che è qui con noi. Buongiorno Paola. No, buongiorno a voi, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Come appunto abbiamo già detto nell'introduzione, siamo qui a presentare un libro e un'iniziativa. Questo libro, Non per odio ma per amore, storie di donne internazionaliste, parla appunto di sei donne, ma parla di sei donne chiaramente particolari, di sei donne che hanno scelto di abbandonare quella che era una loro vita in qualche modo privilegiata, perché erano tutte donne di paesi occidentali, cinque europee e una statunitense, per andare a lottare oppure talvolta anche a combattere con le armi per la liberazione di altri popoli, per una rivoluzione di altri, ma che chiaramente hanno sentito come propria e per questo sono andate lì lasciando tutto e rischiando anche la morte, poi in effetti queste storie sono diciamo accomunate dallo stesso epilogo, cioè appunto l'uccisione o la morte violenta di queste donne. Si parte la prima Allora, storia. direi, forse l'hai già detto, ma io lo sottolineerei proprio questo fatto a cui accennavi. Per tutte è stato l'abbandono di affetti cari, delle famiglie, di tutto, insomma, nel vero senso della parola. Sì, erano donne, in tutti i casi donne colte, donne spesso che avevano un lavoro, in qualche caso come Elena Angeloni aveva un figlio, in ogni caso cioè erano radicate nel paese in cui vivevano e radicate anche nella lotta del paese in cui vivevano. La prima donna, e forse diciamo la più conosciuta, che è Tamara Bunke, Tania la guerrigliera, che si è unita alla spedizione del CE nel 1967, alla spedizione in Bolivia del CE, poi è stata assassinata, è stata uccisa il 31 agosto, poco prima poi del CE, che invece è caduto ad ottobre insieme agli altri guerriglieri. La seconda storia è forse diciamo quella meno conosciuta, che è quella di Elena Angeloni. Elena Angeloni partecipa alla resistenza greca. Angeloni viveva a Milano, appunto aveva un figlio, aveva un lavoro, lascia tutto per partecipare alla resistenza greca. Ora forse i più giovani non ricorderanno nemmeno, ma in Grecia dal 1967 c'erano al potere i colonnelli, c'era stato un colpo di Stato appoggiato dagli Stati Uniti e quindi l'azione di Elena, che viene effettuata con i gruppi della resistenza greca, l'azione di Elena contro l'ambasciata americana statunitense ad Atene vuole denunciare in qualche modo al mondo il regime dei colonnelli, ma nello stesso tempo denunciare anche l'appoggio poi degli Stati Uniti. C'è un problema tecnico e la macchina in cui c'era Elena è un giovane, uno studente cipriota, salta in aria e quindi poi Elena perde la vita così il 2 settembre del 1970. Di Elena poi si è parlato allora e si è parlato anni dopo, ma diremo poi in seguito perché e come si è riparlato di Elena anche nei giornali italiani qualche decennio dopo. C'è poi un'altra storia che a me ha colpito molto, perché devo dire era una storia che ho conosciuto pochi anni fa, non la conoscevo prima, della storia di Monica Hertl, una giovane originaria della Germania che va poi con il padre, era stato un fotografo ufficiale di Hitler, del nazismo, e quindi in qualche modo deve far dimenticare il proprio passato, va in Bolivia e Monica si ritrova appunto così abbastanza giovane all'interno di questa colonia tedesca a La Paz in Bolivia, che era, come dire, ben frequentata frequentata praticamente da vari boia internazionali, tra cui anche Klaus Barbie, che viveva lì sotto falso nome, si faceva chiamare Altman. In realtà Barbie era anche già stato individuato da alcuni cacciatori di nazisti, ma insomma viene lasciato lì tranquillamente a continuare a fare il suo sporco lavoro, ad appoggiare le dittature, ad appoggiare anche quello che fu chiamato poi il golpe della cocaina, a fare traffici internazionali di armi, tutto questo anche con l'appoggio di neofascisti, nazisti europei e anche di alcuni italiani. Monica, all'interno di questa situazione, matura la sua scelta di appoggiare l'ELN, l'Esercito di Liberazione Nazionale, Qui siamo dopo la morte del Che, no? Sì, siamo dopo la morte del Che, siamo dopo l'uccisione anche di quello che aveva preso poi il suo posto, che era Inti Peredo. Siamo adesso nell'azione per cui diciamo la si ricorda di più, siamo nell'aprile del 1971 e non siamo più in Bolivia. Monica torna a Monaco e appunto il primo aprile del 1971 uccide nel consolato boliviano, uccide Roberto Quintanilla Pereira, che apparentemente era il console boliviano lì in Germania. In realtà Quintanilla era il colonnello dei servizi segreti boliviani, che era stato responsabile della morte del Che. Gli aveva mozzato le mani poi per mostrarle al mondo, era stato il responsabile appunto dell'uccisione di Inti Peredo e per il mondo è girata una foto in cui Quintanilla, insomma non so adesso come, non so bene, loro lo chiamano Quintanilla, è diciamo spagnolo, ma loro dicono, ho sentito poi delle registrazioni, sì, Quintanilla, la loro pronuncia è un po' diversa, e poi appunto dopo l'uccisione di Inti Peredo era circolata per il mondo una foto in cui lui sprezzante stava vicino dietro il cadavere di Inti con una sigaretta in mano, con la cenere che era pronta per cadere sopra il corpo, appunto il cadavere di Inti. Monica appunto uccide il console boliviano e poi tenta anche il sequestro di Klaus Barbie tornando in Bolivia, però poi l'azione salta, non riesce, e Monica viene uccisa insieme poi a un argentino. L'imboscata forse è stata anche organizzata da Klaus Barbie. Poi saltiamo un po' di tempo e andiamo agli anni 90. In due storie che si svolgono in un contesto diciamo in qualche modo simile. La prima è la storia di Barbara Kistler, che era una svizzera di Zurigo, ed è la storia che ha fatto partire per me l'idea del libro. Barbara io l'ho conosciuta, era di Zurigo, ma l'ho conosciuta a Roma negli anni Ottanta, perché ci trovavamo un po' nello stesso ambiente politico. C'era allora una forte solidarietà negli anni Ottanta nei confronti dei prigionieri politici. Barbara era in Svizzera e in Germania appunto aveva solidarietà nei confronti dei prigionieri della RAF, delle cellule, andava a fare i colloqui. Qui io partecipavo, diciamo, ai comitati di solidarietà, sia i comitati familiari dei prigionieri politici, sia i comitati invece politici, diciamo, di militanti che appoggiavano e solidarizzavano con i detenuti politici. E questo significava chiaramente un appoggio, c'erano delle condizioni, vabbè, noi che abbiamo una certa età un po' lo sappiamo, c'erano delle condizioni, soprattutto nelle carceri tedesche c'era proprio l'annientamento, la deprivazione sensoriale, molti militanti erano morti, stati uccisi nel carcere, ricordiamo i fatti di Stan Mein. Qui in Italia questo non c'era, però comunque c'erano delle condizioni, c'era l'isolamento, c'era il famigerato articolo 90, c'era la tortura nell'82, soprattutto in Italia, la lotta contro le organizzazioni armate fatta dallo Stato era fatta a suono anche di torture sistematiche nei confronti dei militanti della lotta armata. Quindi c'era ovviamente la necessità di dover in qualche modo appoggiare e difendere questi detenuti, ma nello stesso tempo c'era anche in una, diciamo, area abbastanza diffusa del movimento la necessità di discutere anche di questioni di strategia, di tattica, di violenza rivoluzionaria, di lotta armata. Nell'ambito di questi contesti, nell'ambito di iniziative anche internazionali, appunto, poi ho avuto modo di conoscere Barbara e poi, insomma, l'ho anche frequentata, e quindi questa, cioè la voglia di raccontare questa storia mi ha portato, era una storia che da tempo volevo scrivere, poi mi ha fatto incontrare, cioè mentre studiavo in qualche modo poi il contesto, ricordavo le storie, ho incontrato altre donne, incontrato virtualmente ovviamente nei libri, e da lì è nata l'idea di fare questo libro. Sono 6 storie. Barbara a un certo punto ha deciso comunque di andare a combattere in Turchia, a combattere con il braccio armato del Partito Comunista Turco Marxista-Leninista. È stata arrestata una prima volta nel 91 a Istanbul, torturata per giorni e giorni di seguito, rilasciata, tornata a Zurigo, poi è rientrata in Turchia per combattere, appunto, ed è stata uccisa poi nel gennaio del 93 in uno scontro a fuoco con l'esercito turco. Brevemente le altre due, che sennò qua perdiamo troppo tempo e non riusciamo a parlare dell'iniziativa. Andrea Wolf, una compagna tedesca che sempre faceva parte di questo stesso ambito, diciamo, di Andrea, della solidarietà dei prigionieri, di quello che in Germania veniva chiamato movimento di resistenza. Andrea va a combattere in Turchia, ma nel Kurdistan turco, però con il PKK, cioè il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, e viene anche lei uccisa nel 1998. L'ultima storia è una storia più recente, una storia un po' diversa, che però probabilmente... Una storia non violenta. No? Una storia non violenta, una storia di resistenza attiva, una storia in un paese di cui oggi drammaticamente ancora si parla molto, che è la Palestina. La donna è Rachel Corri, che era una militante pacifista che con altri attivisti dell'ISM, l'International Solidarity Movement, va in Palestina, appunto a Gaza, a effettuare delle azioni di resistenza non violenta. In particolare interposizione, sì, e in particolare Rachel viene uccisa, viene travolta da un bulldozer israeliano mentre sta difendendo le case palestinesi dalla demolizione. Con la storia di Rachel, la sua morte il 16 marzo del 2003, si chiudono poi le 6 storie del libro. Mi sembra che tu hai in tempi brevissimi, tra l'altro, insomma, riassunto efficacemente queste storie, e su cui io credo, se ce ne fosse il tempo, e magari ce ne sarà la sera dell'iniziativa, che ricordo non a caso ha un titolo molto interessante, no? Che è quello dell'internazionalismo necessario, perché mi sembrano non casuali l'abbinamento di queste due parole, intanto perché di internazionalismo è molto che non se ne parla, insomma, è una vecchia parola che aveva un senso preciso negli anni in cui, appunto, noi eravamo più giovani, era qualcosa di molto ben indirizzato e individuato. Se n'è perso il significato nel tempo, oggi ci sono altre parole evidentemente, però quello che forse si va riscoprendo, e da qui credo l'aggettivo necessario, è che questa dimensione internazionale del conflitto viceversa si ripropone e ce l'abbiamo sotto gli occhi, insomma. Che ne dici tu, Marco, di questo? Sì, esattamente, nel senso, come dicevi tu, era una parola che ha legato intere generazioni, internazionalismo, fin dalla fine dell'Ottocento, quando i movimenti anarchici, socialisti e comunisti poi l'hanno iniziata a usare e a praticare, perché quando ho iniziato io, un po' dopo voi, a fare politica, già nel 90 ancora si usava il termine internazionalismo, era l'unica parola con cui si definiva la solidarietà internazionale, e la si usava anche nel senso di praticarlo. Non doveva essere uno slogan, ma bisognava individuare degli obiettivi che allora non erano quelli della mera cooperazione solidale, ma andava diffusa sotto diverse forme. E nel corso del Novecento l'internazionalismo ha significato anche diverse occasioni, insomma, lo scambio non solo di mera solidarietà, ma anche allo scambio di armi, di iniziative politiche armate fra gruppi diversi. E la storia anche di questo paese, anche di questa città, in qualche misura è stata una storia che ha interessato anche questa radio. Per cui oggi il titolo dell'iniziativa sì è azzeccatissimo, perché da almeno 20 anni si parla di questa globalizzazione del capitalismo, dell'abbattimento delle frontiere per far passare le merci e prima fra tutte il denaro, e si parla di come le istituzioni sovranazionali come la BCE, il Fondo Monetario, la Banca Mondiale, che erano preesistenti agli ultimi 20 anni, non sono nate dopo il crollo del muro di Berlino ovviamente, però si sono rafforzate, hanno esteso il loro piano di azione in tutto il mondo, costruendo poi a difesa di questo loro internazionalizzazione delle merci, del denaro, del capitalismo, anche gli strumenti per poterlo difendere, ovvero non solo più gli eserciti, ma delle polizie che cooperano a livello europeo e mondiale. Il punto è che dall'altra parte non c'è stato più una forma di internazionalismo forte come era quello degli anni 70, 60 o anche degli anni 80, che seppur in un momento di sconfitta notevole a livello mondiale del movimento rivoluzionario, comunque la solidarietà con i prigionieri, le lotte internazionaliste erano ancora forti, vivaci. Oggi sappiamo che questo termine è passato un po', ahimè, in disuso. Uno di quelli che vanno più di moda è transnazionale, che personalmente non amo, ma poi non voglio fare sempre il vetero che critica magari i compagni più giovani che usano un altro termine, per carità. Però quando si parla di internazionalismo necessario, si vuol dire che a fronte di questa avanzata del capitalismo e delle nuove forme di imperialismo non c'è una, non dico avanzata, ma neanche una risposta coordinata fra le varie lotte che accadono, in particolare lo vediamo in Grecia o in Spagna o in Italia, oppure quel che resta delle varie lotte dei movimenti di resistenza che già erano forti negli anni 70, insomma, sicuramente la Palestina, sicuramente il Kurdistan, i Paesi Baschi o l'Irlanda, per rimanere nel contesto europeo, perché poi in poche parole sarebbe difficile parlare di tutto il contesto globale. Per cui quando con Paola si è parlato di presentare questo importantissimo libro, secondo me, il cui pregio è innanzitutto quello di riportare all'attenzione delle storie dimenticate per chi c'era, sconosciute per chi non c'era e non le ha vissute. Per cui questo è sicuramente intanto il primo pregio del libro scritto da Paola e Heidi Giuliani. E giustamente poi Paola è stata in questo senso molto internazionalista quando abbiamo parlato dell'ipotesi di presentare il libro. Ha detto: non la limitiamo a una mera e semplice presentazione del libro, costruiamoci un'iniziativa sopra che ci possa permettere di ragionare sull'internazionalismo necessario oggi, su quello che accade quantomeno nel Mediterraneo, dove ci sono diverse lotte importanti, radicali, forti, che seppur contraddittorie, basta però pensare alla primavera araba, la prima cosa che mi viene in mente, insomma, che esatto, cosa recentissima, insomma. Esatto, per cui ha detto invitiamo, l'iniziativa sarà sulla presentazione del libro, ma appunto va oltre, più allargata, ci sarà un compagno che viene dalla Grecia, un compagno, magari poi sarai tu Giorgio a dirci due parole, insomma, però inviteremo dei compagni e delle compagne che vivono queste lotte nei propri paesi per confrontarci e capire che poi la solidarietà non può essere uno slogan, o si costruisce una relazione sociale conflittuale vera, reale, e la si esprime, oppure sì, va bene attaccare manifesti di solidarietà, inventarci le campagne di boicottaggio, ma non è assolutamente sufficiente. Ecco, un po' mi viene in mente la solita frase che dicono spesso i giornali e i giornalisti, non parlando di tutt'altra materia come il calcio, no? Cioè il calcio parlato e il calcio giocato. Ecco, insomma, usando questa metafora, c'è l'internazionalismo, la dimensione internazionale parlata, e c'è quella che manca, è quella praticata, insomma, quella messa effettivamente in pratica. Io non so se tu, Paola, vuoi aggiungere qualcosa, se no. Voglio aggiungere proprio una brevissima cosa, poi chiamiamo Heidi e poi magari parliamo anche un attimo del programma molto ricco della serata. Volevo solo dire che cioè per me era necessario non solo l'internazionalismo, ma anche, come dire, fare delle iniziative sull'oggi per presentare questo libro, perché io ho già anche scritto, curato altri libri che parlano di memoria delle lotte. Sono anche libri di narrativa, quindi non saggi oppure libri di storia, però comunque l'obiettivo per me sempre, nel momento in cui mi occupo di memoria storica del movimento operaio, di memoria storica delle lotte popolari, eccetera, è sempre il mio obiettivo quello di cercare di dare degli strumenti di riflessione, di cercare di trovare insieme delle strade per il presente e per il futuro, perché altrimenti diventa sì una memoria in qualche modo importante, perché comunque è importante lasciare delle tracce, ma direi monca, insomma, a cui manca qualche cosa. L'ultima cosa brevissima, poi chiamiamo Heidi, è che l'iniziativa di venerdì, oltre che dal centro sociale Ex SNIA, è promossa anche dal comitato, dall'Osservatorio sulla repressione, proprio perché appunto vogliamo parlare di questo percorso necessario di internazionalismo, ma vogliamo anche ricordare che oggi, soprattutto in un momento in cui la crisi sta avanzando, in cui nascono e si sviluppano delle nuove lotte, si delinea anche sempre di più una strategia poi di attacco alle condizioni di vita e di repressione nei confronti di chi resiste a quello che poi appunto abbiamo detto devastazione e saccheggio di territori, di diritti, eccetera, e quindi è necessario, insomma, anche capire quali sono queste strategie per poter poi trovare anche delle nostre strade di lotta. Ci sono indubbiamente dei punti di congiunzione tra un aspetto e l'altro, cioè una dimensione internazionale necessaria, nuova, deve fare i conti anche con una dimensione internazionale della repressione, insomma, in tutti i paesi, in tutti i sensi, insomma, ecco, verissimo quello che tu dici. Bene, e allora mettiamo uno stacco musicale e fra pochissimo ci mettiamo in contatto con Heidi, così da sentire anche la sua voce su questo libro e su questa iniziativa. Don't care. stai ascoltando? Giorgio, ti stavo ascoltando. Radio Onda Rossa. Ah, vabbè, meno male. Allora, pronto Heidi? Ci senti? Heidi, pronto? Sì. Eccoci. Allora, molti rumori. Ecco, sei in linea qui con Radio Onda Rossa e con Paola e Marco, che sono qui per parlare di questo vostro libro, tuo e di Paola, e della iniziativa che ci sarà a Roma il 30 novembre, venerdì prossimo. Innanzitutto faccio io una domanda. Avete visto Radio Onda Rossa? Il mio ringraziamento a voi per quel bellissimo manifesto. Sì, certo, certo. I ringraziamenti sono scritti piccolo, piccolo, piccolo. Sì, ma va bene, insomma, l'abbiamo visto. Ti ringraziamo di averlo sottolineato, perché insomma a volte magari qualcuno se ne dimentica, invece tu sei stata molto puntuale su questo. No. E allora la tua sensazione, la tua impressione, soprattutto le tue motivazioni su questo libro, Heidi? Le mie motivazioni partono da molto lontano, da 40 anni fa, dalla storia di Elena, e quindi ho chiesto, cioè ho raccontato a Paola la storia di Elena. E dovrei fare ancora un passo indietro. Nel 68 Anna Gaggio, mia sorella, arriva a Roma ed apre una piccola libreria che si chiama Uscita. E all'Uscita vengono moltissime persone di sinistra, perché mia sorella con il suo compagno Gianni Pegg fornivano, procuravano e raccoglievano molta stampa alternativa, molta stampa anche di altri paesi. Avevano già lo sguardo aperto sul mondo e non solo attento al nostro cortile casalingo. E quindi all'Uscita arriva la ragazza, anche Paola, ed è per questo motivo che poi Paola e io ci conosciamo più a fondo, diciamo, perché dopo l'uccisione di Carla Paola scopre che io appunto sono la sorella di Anna, e dopo l'uccisione di Carla, ho detto giusto, sì, perché sono un po' distratta dalla nipotina che fa esercizi di ginnastica sul divano, sullo schienale del divano. E così ci conosciamo di più, e Paola comincia a curare delle pubblicazioni, tre ne sono uscite, a cura del comitato Piazza Carlo Giuliani, cioè a favore del comitato Piazza Carlo Giuliani. E queste tre pubblicazioni sono in ordine pubblico: Piazza Bella Piazza e La Rossa Primavera. Dopo questa, Paola, per il decennale dei fatti di Genova, cura anche un libro di racconti di 30 autori che scrivono per Carlo, che si chiama Per sempre ragazzo, edito da Tropea. E dopo mi dice: allora vuoi farlo finalmente questo libro per parlare di Elena? Naturalmente non solo di Elena, naturalmente troviamo subito altri nomi, altre donne che hanno perso la vita, perso, comunque hanno messo in gioco la propria vita per la liberazione, per la libertà di altri popoli. E così esce, non per odio ma per amore, Sì, pronto, ci sei, Heidi? Sì, sì, ci sono. Ci benissimo. Sono. Ecco, esce questo libro, ma sulla qualcosa di più diretto e magari anche più personale su questa proprio figura di Elena, che immagino a te sia stata molto cara, insomma, in tutti i sensi. Si può immaginare quanto mi sia stata cara e mi sia cara dal fatto che mia figlia porta il suo nome. Mia figlia è nata 2 anni dopo e quindi ho voluto ricordare la mia compagna e amica e madre di un mio nipote con questo nome prima di tutto. Sì, io ho scritto il racconto su Elena nel tempo, nel senso che ho raccolto le testimonianze dei compagni greci prima di tutto, di mio fratello, del figlio, le ho raccolte tutte e quindi il racconto si è scritto da solo praticamente. E a questo poi abbiamo aggiunto altre figure di donne coraggiose. Ecco, se posso fare un appunto al libro, è che la copertina non rende giustizia alle nostre donne. E quella figura di donna che volge il viso e che si copre gli occhi non corrisponde al carattere delle donne di cui raccontiamo la vita. Sì, mi sembra una osservazione giustissima, innanzitutto per le 6 protagoniste del libro, ma io penso per tutte le donne in genere, ecco, insomma, che raffigurarle che voltano lo sguardo non è la cosa più azzeccata. Va bene, credo che questi sono forse normali, direi incidenti che capitano nell'ambito dell'editing, come si dice, no? Dei libri, insomma. Può succedere, dispiace, ma può succedere. Scusa, ma sono continuamente distratta da una ragazzina di 4 anni che vuole saltare da un divano all'altro. Da un divano all'altro, e sicuramente ha le sue buone ragioni. Sì, certo. Va bene, Heidi. Soprattutto la ragione che la nonna sta al telefono. Sta al telefono e non vada a lei. Senti, Heidi, noi ti ringraziamo, quindi ti lasciamo senz'altro alla tua nipotina. E ti ringraziamo di questo tuo intervento e ovviamente ti aspettiamo venerdì a Roma e ti ascolteremo con molto piacere e attenzione venerdì prossimo, insomma, insieme a tutti gli altri e le altre. Vi ringrazio io e sicuramente il sabato prossimo sarò meno distratta. Va bene. A presto. D'accordo. Grazie. Ciao Heidi, grazie. Ciao. E allora, tornando in diretta, abbiamo sentito anche le parole di Heidi su questo libro. Non so se tu, Paola, che insomma volevi dire qualcosa ancora su quanto accennava Heidi adesso. Insomma. No, vabbè, cerchiamo appunto di sintetizzare un po' anche per poter poi parlare del programma serata del 30 novembre. Volevo soltanto ricordare che la prefazione al libro è di Silvia Baraldini, che sarà anche presente venerdì prossimo e che tutti conosciamo, è stata prigioniera nelle carceri statunitensi. E l'editore è Derive a Prodi, però io passerei appunto direttamente, lascerei la parola a Marco per parlarci, raccontarci un po' il programma di questa serata di venerdì 30 novembre dalle 18:30, un programma ricchissimo, fino alle 2:30 al centro sociale ex SNIA in via Prenestina 173. Sì, dunque il titolo della serata appunto è Amor rivoluzionario, l'internazionalismo necessario. Sarà una serata, insomma, la stiamo costruendo, oltre alla presentazione appunto del libro, si cerca di costruire questa serata in una forma che sia il più coinvolgente possibile per le persone, per i compagni e le compagne che verranno, per cui ci saranno letture, video e interventi, innanzitutto di Heidi e di Paola, che sono le autrici del libro. Ci sarà ovviamente un intervento del centro sociale occupato autogestito Ex Snia Viscosa, che è promotore di questa iniziativa. Ci sarà appunto l'intervento di Silvia Baraldini, che è autrice della prefazione, che in qualche misura di internazionalismo rivoluzionario si è fatta portatrice in prima persona e non solo attraverso le parole, per do per scontato che conosciamo tutte e tutti la sua figura, storia, sì. Ecco, appunto. Poi ci sarà appunto l'intervento di Italo Di Sabato, come accennava prima Paola, che fa parte dell'Osservatorio sulla repressione, un osservatorio che attraverso il suo sito quotidianamente denuncia la repressione nelle carceri, nelle strade, nelle caserme, nei commissariati in questo paese, e non solo, denuncia spesso quello che accade negli altri paesi, in qualche misura dal punto di vista della controinformazione internazionalista si fa portatore di questa risposta alla repressione, quella sì internazionale, che portano avanti governi e forze di polizia ed eserciti. È un buon sito, io vi consiglio di visitarlo, perché ci sono tante informazioni importanti. Sì, e tra l'altro, scusa, adesso abbiamo costituito l'osservatorio non solo come sito ma recentemente anche come associazione, e quindi poi la serata del 30 sarà anche un'occasione. Io sono appunto fra i promotori poi di questa associazione, e la serata del 30 sarà anche un'occasione per conoscerci meglio. Vogliamo andare oltre il sito, oltre la denuncia, e fare appunto anche delle iniziative. Questa è una delle prime. Ci sarà la possibilità anche di fare la tessera, insomma, di conoscerci meglio. Poi un'altra cosa importante è che ci sarà alle 22, si intitola Ehi tu, il lato cattivo di Ernesto Guevara, una narrazione di Alessandro Pera, e insomma che farà delle letture, appunto una narrazione sul CE, e a mio avviso è una cosa molto molto interessante, perché il titolo è chiaro, il lato cattivo di Ernesto Guevara, poiché il CE dalla sua morte in poi è diventato un'icola, un simbolo, sta su tutte le magliette, quasi santo, bandiere, appunto, e questa figura romantica del rivoluzionario molto buona. Questa è stata senza difetti, è stata riscritta, in qualche misura è stato disumanizzato Ernesto, esatto. Che Guevara, come dicevi tu, quasi santo, non era più un essere umano, un uomo, un compagno, e ovviamente ci si dimentica delle sue parole e delle sue azioni. Ahimè, a un certo punto negli anni Ottanta erano anche scomparsi i libri del CE, non si trovavano più in libreria dopo il grande successo editoriale del decennio precedente. E invece attraverso questa narrazione Alessandro Pera vuole ricordarci e raccontarci di nuovo che Ernesto Che Guevara era un militante rivoluzionario e che ha fatto una rivoluzione, ha cercato di costruirne altre attraverso l'internazionalismo e attraverso la lotta armata. Ci sarà un reading teatrale di Attrice Contro in collaborazione con Antonio Carboni alla chitarra, dedicato a Tania la guerrigliera, e ci sarà un incontro importante. Adesso faccio io una domanda a Giorgio, cambiamo un attimo i ruoli. E ci sarà un incontro molto importante che ci teniamo a sottolinearlo qui in trasmissione, lo faremo durante l'iniziativa del 30, con Tassos, un compagno antifascista greco della commissione antifascista di Platea Victoria, perdonate il mio greco è pessimo ovviamente, sì. Di Atene, ed è una storia importante quella di Tassos, perché unisce la generazione che ha combattuto la dittatura dei colonnelli a quella che oggi combatte la dittatura della BCE, della grande finanza, che ha portato alle condizioni che ben conosciamo la Grecia, per cui chiedo io a Giorgio di raccontarci chi è questo compagno e perché stiamo dedicando in particolar modo un aspetto dell'iniziativa all'incontro con lui. Beh, io intanto credo che l'aver voluto riservare insomma una particolare attenzione già dalle vostre parole a questo aspetto è un indice della vostra sensibilità sul tema. Al di là della figura di questo compagno che gli ascoltatori di Tassos, che gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa conoscono per le numerose corrispondenze, è un po' adottato da Radio Onda Rossa nel senso che ci fa da corrispondente, non osiamo chiamarlo il corrispondente di Radio Onda Rossa ad Atene perché sarebbe non solo esagerato ma sarebbe anche pericoloso per lui magari, insomma, che venisse troppo accostato a Radio Onda Rossa. Però non è questo, insomma, questa era solo una battuta. Quello che volevo dire è che Tassos appunto sarà qui molto volentieri, insomma, ha accettato questo vostro invito proprio per cercare di dare una testimonianza diretta di quello che accade nel suo paese, in questa Grecia di oggi che secondo me e anche secondo lui, secondo anche altri, insomma, è un po' il laboratorio più avanzato di questa crisi che, insomma, cosiddetta, che va investendo molti paesi d'Europa, non solo più avanzato perché è cominciato prima degli altri, ma più avanzato proprio perché si fanno sperimentazioni che poi vediamo in qualche modo e con i necessari dovuti adattamenti avvenire anche in altri paesi, insomma, senza entrare nel merito, diciamo così, dei singoli argomenti che sono tutti quelli che rimandano a politiche di austerity in senso lato. Quindi Tasso che, come dicevi tu, speriamo che riesca a trasmettere e a dare il senso di questa continuità a cui facevi riferimento, insomma, e quindi a dare anche un senso piccolo nell'ambito della sua testimonianza di quello che è l'internazionalismo necessario, di quello che si pone proprio come argomento della serata, in continuità con quelle figure, sia pure con livelli diciamo di impegno diversi per molti motivi, insomma, se non altro perché ancora non si parla evidentemente di lotta armata in Grecia, insomma, non è questa la dimensione attuale del conflitto, insomma, né possiamo qui augurarci o non augurarci che questo avvenga, insomma, queste sono dinamiche che non stanno dentro una sfera di cristallo, evidentemente. Però certamente ritrovare questo filo di continuità è importante, io penso soprattutto è importante per i giovani e in questo io vedo sempre, insomma, anche in questo libro e do atto a Paola e a Marco, a Paola per averlo scritto insieme a Audi, a Marco per essersi impegnato, insomma, nella sua presentazione, di fare svolgere anche una funzione didattica verso i giovani, insomma, no? Che non solo non conoscono la figura di Elena, magari conoscono la figura di Tania, come dicevi tu, perché è la più nota, conoscono meno le altre figure, ma soprattutto non hanno la percezione di quello che negli anni passati era veramente un impegno militante che era la ovvia e naturale continuazione di quello che magari si faceva in casa, insomma, un impegno militante di carattere internazionale che oggi si è effettivamente perso. Riproporlo con esempi concreti come è stato fatto in questo libro mi sembra la funzione, la prima funzione e anche la più semplice da un lato ma la più indispensabile, direi. Innanzitutto, come diceva Fortini, sapere, far sapere, fare e saper fare, insomma, no? Quindi la prima cosa è far sapere, allora in questo libro fa sapere di queste esperienze, insomma. Sì, scusa, per tornare un attimo al programma, poi volevo dire che oltre a Tassos, che viene poi proprio per questa iniziativa viene da Atene, ci sarà anche una compagna della rete italiana del DSM, cioè la stessa organizzazione di cui faceva parte Rachel Corri. Questa compagna ci parlerà della sua esperienza in Palestina, dove è stata più volte. E tutto questo poi lo faremo con brevi interventi alternati a video e letture durante la presentazione del libro, ma lo faremo appunto anche poi dopo in una... così, ci è venuta in mente una cosa un po' strana, cioè facciamo una cena dibattito in modo che possiamo forse in modo un po' più informale tutti noi che poi partecipiamo a questa iniziativa, per cui il compagno Greco, la compagna dell'ISM, Silvia, Heidi, io, tutti i compagni che saranno lì, mentre mangiamo, sarà insomma così una cena buffet a sottoscrizione, possiamo cercare di parlare in modo più informale, per cui magari possiamo intervenire tutti, fare una domanda, fare una piccola riflessione, e abbiamo intitolato poi appunto questa cena dibattito, un confronto sulle possibilità di connettere e sostenere i percorsi di lotta e globalizzare il conflitto. Certo, insomma, il titolo è un po' ambizioso, però insomma qualche cosina faremo. Tutto, ricordiamo però poi anche diciamo la parte spettacolo che c'è dopo. Allora, Marco già ha parlato delle due narrazioni, quella di Alessandro Pera su Ernesto Guevara e quella di Attrice Contro su Tania la guerrigliera, ma dalle 22:30 poi ci sarà tutta la parte spettacolo e concerto. Alle 22:30 Ginko e Acoustic Impact con ospiti Mac Shark, The Face e Woofer. A seguire poi una dancehall con Dubass Sound System e Sista Maria fino alle 2:30. Tutto questo, ricordiamolo, il 30 novembre dalle ore 18:30 al centro sociale occupato o gestito ex SNIA in via Prenestina 173. E questo quindi diventa l'appuntamento che diamo insomma a tutti e tutte da questi microfoni. Perché insomma ci sembra oltre il libro, che è non dico il pretesto, ma insomma è l'aspetto principale di questa serata iniziativa, insomma è arrivare a ridiscutere o perlomeno tentare di ridiscutere di quel tema dell'internazionalismo necessario, attraverso che cosa? Attraverso appunto, come dice il titolo, l'amor rivoluzionario, che quindi l'amore di queste rivoluzionarie per la rivoluzione stessa, insomma, di questo sentirsi parte di un grande processo e soprattutto dell'umanità intera, perché credo insomma che sia proprio questo poi il senso ultimo, no? Di non appartenere solamente a un paese, a una lotta, eccetera, ma in questo di essere il senso vero dell'internazionalismo, appartenere a una causa, che è una causa che travalica i confini, le nazioni, gli stati, insomma. Ma che è il senso proprio del titolo del libro, cioè non per odio ma per amore. Non parliamo ovviamente dell'amore, prevalentemente dell'amore per un altro essere vivente, ma appunto, come dicevi tu, dell'amore per la rivoluzione, dell'amore per la giustizia sociale, per la libertà dei popoli. Bene, io credo che abbiamo, spero e tentato, e credo ci siamo anche riusciti di avervi dato una buona illustrazione e sintesi di quello che è sia il libro sia soprattutto la serata che ci sarà venerdì prossimo. Lo ripeto ancora come appuntamento per tutti e tutte, è alle 18:30 al centro sociale ex SNIA in via Prenestina, con questa serata che prevede la presentazione del libro di Paola Staccioli e Heidi Giuliani, Amor rivoluzionario, non per odio ma per amore, e poi con dibattiti, con presenze di esponenti dell'ISM, una compagna dell'ISM, l'International Solidarity Movement, di un compagno greco, Tassos, di Silvia Baraldini, di Heidi Giuliani e Paola Staccioli, dei compagni della SNIA e di tutte coloro che parteciperanno a questa presentazione dibattito, che seguirà, come si è detto, anche con una buffet parlato, chiamiamolo così, una cena parlata in cui si spizzica, si mangia qualcosa, ma si seguita a discutere, non magari in una forma meno canonica, ma proprio per questo speriamo più efficace per tutti. Con questo salutiamo ascoltatori e ascoltatrici in ascolto, ringraziamo Paola e Marco per questa loro presenza e per questo loro sforzo. Quindi saluto a tutti. Grazie, grazie a voi e a venerdì.